Niente latte o altri prodotti caseari cinesi. Nel nostro paese l'importazione è già vietata da anni, ma ieri, nei controlli fatti dai NAS, a Milano sono state sequestrate un centinaio di confezioni di latte e yogurt in due negozi, a Firenze circa 6,5 quintali di biscotti, al setaccio container, pacchi postali e le derrate alimentari di negozi e ristoranti. Francesca Martini, sottosegretario alla Salute. Questi controlli sono controlli che oggi iniziano e non verranno revocati, credo, fino a quando la Cina non inserirà tra quelli che sono le proprie abitudini, la sicurezza e i protocolli che noi attuiamo in Europa da moltissimi anni. Ed ecco cosa ci hanno detto i baristi della Chinatown milanese di via Paolo Sarpi. Io uso un pane cinese, però usano solo latte Milano. Noi non utilizziamo nessun tipo di prodotto con latticini. Eventualmente ce ne sono alcuni, però provengono qua dall'Europa, in Italia. Almeno 15 giorni ci sono controlli qua. I cinesi o la Cina siamo un po' nell'occhio del ciclone. Chiara Romanello, GR24, Il Sole 24 Ore.